Sempre più imbufaliti i tifosi rossoneri. Che il Berlusca questi giorni vada in barca non è un buon motivo per far naufragare anche il Milan. Onda su onda, il mare mi ha portato qui. Ritmi, canzoni, le donne di sogno, banane, lamponi.